Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e benvenuti a Magazine 24, appuntamento il sabato e la domenica con le proposte non quotidiane che trovate in edicola. Curiosiamo qua e là, cerchiamo qualche cosa da consigliarvi o anche qualche notizia che potrebbe esservi sfuggita. Ad esempio, io non so quanti siano accorti, quanti abbiano contezza del fatto che proprio oggi, sabato 2 luglio, è la giornata mondiale degli UFO. Gli UFO nel senso proprio gli extraterrestri, cioè gli oggetti volanti non identificati, che sono, diciamo, un argomento sempre di moda. Di questa particolare ricorrenza, che devo ammettere mi era completamente sfuggita, si è accorto invece Vanity Fair, un divertente pezzettino di Laura Fiengo, che appunto dice: c'è qualcuno lassù, con l'estate inizia anche la stagione degli incontri ravvicinati, cioè le segnalazioni di avvistamenti extraterrestri. L'ultimo in Italia è del 18 giugno, si tratta di un cerchio nel grano spuntato a Massignano, provincia di Ascoli Piceno. Intanto, appunto, in tutto il mondo il 2 luglio celebra la giornata mondiale degli UFO. C'è anche qualche numero qua e là che è bello leggere. Nel 2010 la media è stata di 200 avvistamenti al mese. Secondo il Centro Ufologico Italiano, però, solo il 5% di questi 200 avvistamenti rimane di origini misteriose, perché il 95% degli avvistamenti in cielo di cose appunto non immediatamente spiegabili si spiega poi con fenomeni naturali oppure causati dall'uomo. Il più frequente sono le lanterne cinesi, cioè palloncini di carta di riso con una candela all'interno. C'è anche una foto che correda il tutto, mostra appunto uno sciame di queste lanterne che in cielo, in una foto scattata a Poznan in Polonia il 21 di giugno, proprio in occasione del solstizio, appunto fa una mostra quasi da oggetti volanti non identificati. Volano per chilometri, una volta in cielo appaiono appunto come globi luminosi. Le regioni che hanno più avvistamenti, la Campania è in testa, e quindi il neo sindaco De Magistris, oltre al problema ben più serio in me della spazzatura appunto a Napoli, dovrà anche in qualche modo far fronte agli avvistamenti sul Vesuvio. Sono talmente tanti che il Centro Ufologico Campano ha proprio chiesto di istituire una commissione di inchiesta sugli UFO proprio nella città di Napoli. E allora restiamo su cose un po' leggere. Abbiamo cominciato con questa ricorrenza, certo un po' tutta da vedere, della giornata mondiale degli UFO, che si celebra oggi, ripeto, proprio il 2 luglio. Naturalmente tutte le riviste, specialmente le riviste femminili di questa settimana, sono molto molto piene della vicenda Clooney Canalis. Come ormai sappiamo tutti, i due si sono lasciati, quindi le riviste, ripeto, specialmente femminili, si sono concentrate molto sulla fine di questa relazione, che era una relazione anche molto famosa, i due molto famosi, entrambi molto belli, e quindi insomma è comprensibile che ci sia una notevole attenzione anche dal punto di vista del costume, non solo da quello proprio del gossip, del puro pettegolezzo. Ad esempio Vanity Fair, tanto per restare con comodità sulla stessa rivista da cui abbiamo tratto la notizia precedente, presenta una serie di articoli, ma così fanno altre testate più dedicate al pubblico femminile, Grazia, Donna Moderna e altre ancora, che appunto raccontano un po' in retroscena, tornano su questa separazione. Non è, come dire, soltanto una cronaca quello che propone Silvia Nucini proprio su Vanity Fair a proposito della separazione Clooney Canalis, perché prova anche a ragionare un po', diciamo, da donna sulla posizione di Elisabetta Canalis. E dice: sia che voi siate sostenitori della teoria del contratto, c'è una diceria appunto secondo la quale lui è gay, a lei conviene, tutto sarebbe stata una messa in scena, oppure della teoria del riscatto, vedi che anche le veline possono andare in paradiso, ecco, allora dovete però ammettere che tra Elisabetta Canalis e George Clooney c'è stata una storia in cui c'era proprio di tutto, c'era qualcosa di nuovo, cioè gli sponsor, il red carpet, addirittura dentro il comunicato di fine rapporto c'è stato qualcosa di vecchio, l'atmosfera della Bre del Lago di Como, la vicenda del salto sociale, però un salto sociale dove lei, invece di imparare a scandire la rana in Spagna, gracida in Campania, ripeteva invece Sud Sudan e gentrification. C'era qualcosa di blu, naturalmente, come una certa malinconia negli occhi, e qualcosa di prestato, lui prestato all'aglio, lei prestata a Hollywood. Però, scrive appunto Silvia Nuccini, nonostante la presenza di tutti i crismi prescritti dalla tradizione, appunto qualcosa di nuovo, qualcosa di vecchio, qualcosa di prestato, qualcosa di regalato, il matrimonio non c'è stato. Ora, la Canalis, prosegue Silvia Nuccini, non è proprio una donna che possa suscitare grandi simpatie femminili. Non è solo una questione di invidia per la sua straordinaria bellezza, né di quel senso di scippo diffuso per il fatto che lei stesse con lui. È che lei è stata in area a tirare il calcio di rigore e al dunque, con milioni di occhi benevoli e malevoli puntati, ha poi centrato la traversa. Il gol però non era il matrimonio, era dimostrare che si può essere la fidanzata di uno ricco e per niente scemo e non fare per di questo un'attività a tempo pieno. Era il rendersi conto che certi privilegi acquisiti per meriti o per contratto si ha il dovere di sfruttarli con intelligenza per rispetto a chi questi privilegi non li avrà mai. E quindi conclude, insomma, Elisabetta, avevi sotto mano Hollywood da una parte, Kofi Annan dall'altra, se non ti riusciva di fare l'attrice almeno avresti potuto farti contagiare dallo slancio charity di George, condividere con lui speranze in un mondo migliore, sacchi a pelo in zone malariche. E invece, qualsiasi sia la risposta, dice qualche riga più avanti, dai, almeno avrai migliorato il tuo inglese. E questo è l'inconfondibile sax di Charlie Parker, è la proposta settimanale dei nostri miti del jazz. Come sapete, questa collana che è in vendita con il Sole 24 Ore ogni giovedì c'è una nuova uscita. L'uscita di questa settimana è appunto dedicata a un'antologia di Charlie Parker, mitico sassofonista, dalla vita se possibile più sregolata ancora rispetto a quella di tanti altri colleghi. I musicisti jazz non sono, diciamo così, degli esempi di vita regolare, di vita da seguire. Molti dei musicisti più famosi hanno avuto delle esistenze abbastanza disordinate, se vogliamo usare un eufemismo. Quella di Charlie Parker è quasi da primato, perché è morto che non aveva nemmeno 35 anni, era nato nel 1920, in realtà morì che, appunto, come testimoniarono i medici, non sapendo, appunto, non avendo sotto mano documenti, morì che poteva dimostrare 50 o 60 anni. Questo appunto perché Bird, questo era il suo soprannome, Bird aveva una vita particolarmente sregolata, con abusi di tutti i generi, dalle droghe all'alcol, anche a una, come dire, continuo correre dietro alle donne, che insomma non ha giovato neanche a lasciarci molte sue incisioni. Una quindicina, ve le proponiamo in questa uscita dei miti del jazz. Vi voglio raccontare una cosa che ho trovato nel volumetto che accompagna il disco. Perché si chiamava Bird? Perché lo chiamano ancora oggi Bird? Perché si dice che una volta il conducente della macchina su cui viaggiava con altri, Charlie Parker, questo conducente investì una gallina e Parker lo costrinse a tornare indietro per poterla raccogliere e prepararsela per cena. Da lì sarebbe venuto questo nomignolo, questo soprannome di Bird, che poi è rimasto appunto attaccato a Charlie Parker. E allora abbiamo lasciato Charlie Parker, stavamo parlando di fidanzamenti celebri che, ahimè, sono finiti male. Proprio al tema di dirsi addio è dedicato anche un divertente articolo di Panorama firmato da Romana Liuzzo. Romana Liuzzo estende un po' la vicenda Clooney Canalis a come dirsi addio nell'era della tecnologia. Allora, non per dare dei consigli, per carità, si tratta soltanto di prendere qualche esempio. Naturalmente sappiamo che i due Clooney e Canalis si sono lasciati con un comunicato stampa, quindi in un modo abbastanza formale, per così dire, però ci sono molti che privilegiano gli SMS, chissà perché. Sembra che il poter lasciare, specialmente da parte di uomini che lasciano le donne, ecco, l'SMS sia un mezzo molto molto utilizzato. Romana Liuzzo ricorda il caso di Bob Ovieri, che così appunto con un SMS ha dichiarato chiusa la sua vicenda sentimentale con Melissa Satta. Peraltro un altro calciatore, un altro attaccante, Mario Balotelli, ha invece lasciato la sua compagna in una trasmissione TV. Questa è una cosa che in realtà è successa anche altre volte. La stessa Liuzzo ricorda la vicenda della Lecciso, che appunto scelse la TV per dire che lasciava Albano. Daniel Day-Lewis lasciò Isabella Gianni con un fax, però probabilmente il fax è fin troppo riservato, dice, magari non è come dire, non è abbastanza pubblico per persone che poi vivono di notorietà, e quindi chissà, forse l'SMS o l'utilizzo addirittura della televisione sembrano più appetibili. E poi naturalmente, e non potevano mancare, ci sono i mezzi dei social network, Facebook, Twitter, traboccano, scrive Romana Liuzzi, di abbandoni proclamati ai quattro venti della rete, come a dire, eccomi qua, sono di nuovo pronto per un nuovo giro di giostra. Magazine 24. Bentornati, bentornati a Magazine 24. Allora, vi stavo riferendo da Panorama questo sistema un po' tecnologico, un po' alla moda, di lasciarsi con SMS, SMS o addirittura via social network, cioè utilizzando Facebook, utilizzando Twitter. Però la vicenda degli SMS in realtà ha un paio di spunti interessanti su altre testate. Ad esempio, sul Venerdì c'è una lettera molto curiosa nella rubrica condotta da Natalia Aspesi, che riferisce di una vicenda di quelle che paiono quasi inventate, di una studentessa che appunto ha questa relazione, pare intensissima, via SMS con un ragazzo però che non conosce. Una cosa da 100 messaggi al giorno, scrive una Maria che si definisce amica di questa ragazza, però questi non si sono mai incontrati. Addirittura riferisce in questa lettera pubblicata sul Venerdì, a causa di questo rapporto morboso però lei non esce perché ha paura in qualche modo di tradire questa relazione, che è solo via messaggini, e non va nemmeno al cinema se per caso nella sala dove proiettano il film non c'è abbastanza campo. Naturalmente qui siamo un po' come dire, nella patologia, perché pur capendo la passione per le nuove tecnologie, i nuovi mezzi di comunicazione, si fa fatica a immaginare che si possa intrattenere una relazione di una qualche utilità con una persona che non si è mai vista e che si contatta solo per SMS. Però la vicenda si intreccia bene con un'altra lettera che compare questa volta su Famiglia Cristiana. Scrive un padre di tre figli, dice: i due più grandi hanno ricevuto in regalo un cellulare, e quindi restiamo sempre in zona di SMS, di cellulari e quant'altro. Senza entrare nel merito dell'opportunità di possedere un telefonino in così giovane età, peraltro qui non si precisa in questa lettera quanti siano gli anni precisamente di questi ragazzi che hanno ricevuto il cellulare, ho provato però sulla mia pelle il cinismo e la malafede delle compagnie telefoniche. Perché appena attivato il telefonino, i miei figli sono stati tempestati di messaggi della compagnia telefonica che invitava a rispondere a una domanda, allettando con l'estrazione di alcuni premi. Il problema, prosegue la lettera, è che la risposta attivava automaticamente l'adesione a un servizio dal costo medio di 3 euro a settimana, che venivano detratti dalla ricarica telefonica. Allora mi sorgono alcune domande. Le compagnie telefoniche sanno bene che gli utenti giovanissimi sono purtroppo in costante crescita, che i testi inviati sono talvolta di difficile comprensione, magari poco chiari anche per un adulto, figuriamoci per dei ragazzini. Questo giochetto costa parecchi soldi ai genitori e io lo trovo subdolo e deprimente. Ritengo sia una circonvenzione di incapace e un raggiro. Questa è la protesta per appunto questo malvezzo commerciale di inviare arrivare ai nuovi utenti del servizio telefonico via cellulare, appunto degli SMS, con cui però si invita a sottoscrivere un abbonamento. Non sempre, scrive questo padre, le cose sono così chiare, così comprensibili, quindi si comincia a pagare e quando ci si accorge che si sta pagando qualcosa che magari non si voleva, magari si sono già sborsati diversi euro. Torniamo però al lato, come dire, buono della tecnologia, torniamo con Applicando. Applicando è un mensile che è uno dei mensili più importanti, se non il più importante, proprio per il mondo del Mac, mondo Apple. Mi è piaciuto una cosa che consiglia Antonio Dini sul numero appunto di luglio di Applicando, perché consiglia le app per l'estate. Ora, chi non ha questi telefoni più evoluti, appunto gli iPhone che consentono, o gli iPad che consentono di accedere a queste app, rimarrà un po' tagliato fuori da questa segnalazione, mi scuso, ma in realtà dovete sapere che possedendo questo tipo di supporti poi viene da comprare o da prendere, alcune sono anche gratuite, alcune di queste app, viene da prendere questi programmi che fanno davvero di tutto, aiutano a gestire la vita sotto tutti gli aspetti. Dini fa una raccolta delle cose che potrebbero servire in vacanza, allora naturalmente da tutte le app, le applicazioni che sono mappe, navigatori e così via, ma anche cose che lui stesso definisce oltre l'essenziale. Ad esempio esiste un'applicazione che è gratuita e che contiene la descrizione delle prese, delle spine elettriche di tutto il mondo. Questo per chi viaggia può non essere un dettaglio. Lui stesso dice: è fondamentale, mi ha salvato da imbarazzanti problemi più di una volta. Poi ci sono delle applicazioni survival, cioè un po' per vacanze avventurose. Ad esempio c'è un'applicazione che ricava informazioni meteorologiche dalle stazioni degli aeroporti di tutto il mondo, sia quelli grandi ma sia soprattutto quelli piccoli, e quindi vi informa, dà delle informazioni anche per località che magari si fa più fatica a individuare. E poi ci sono gli altimetri, i tachimetri e tutte le varie possibilità di misurare, diciamo, la propria posizione geografica o la propria velocità di spostamento. Tutto questo su Applicando, mensile dedicato proprio al mondo Mac, nel numero di luglio. Beh, in realtà poi luglio è anche un mese, come dire, importante per le tasse. Abbiamo scritto sul Sole 24 Ore nelle scorse settimane, per un po' di giorni, comincia il primo luglio l'estate rovente del fisco, quindi è proprio cominciata ieri. Tra le novità che sono partite da ieri c'è questa cosa che si chiama spesometro, diciamo meglio che noi abbiamo chiamato spesometro, ovviamente il suo nome in termini legali sarebbe molto meno affascinante di così, molto più lungo di così. E lo spesometro è questa cosa, questa norma per cui se adesso fate un acquisto che supera i 3.600 euro vi chiederanno il codice fiscale. Una cosa a cui ci dovremmo abituare, serve naturalmente a contrastare l'evasione. Tra l'altro con il Sole 24 Ore in questi giorni c'è anche una guida al nuovo spesometro, appunto, che spiega un po' come, a cosa serve, come si utilizza, quali sono i diritti dei contribuenti che potrebbero vedere appunto dallo spesometro, oltre che un cambiamento di abitudini come succede per i negozianti, magari poi dei successivi controlli. E questa è la proposta appunto per il nuovo obbligo che proprio da ieri ha segnato un cambiamento importante nei consumi nostri di italiani. E allora dalle tasse torniamo in area di tecnologia. Questa mattina abbiamo parlato un bel po' di tecnologia, di SMS, di cellulari, anche di comportamenti non corretti delle compagnie telefoniche. Allora vi voglio segnalare che sull'Espresso c'è una bella classifica curata da Alessandro Longo, che viene dalla Agicom, l'autorità garante delle comunicazioni, che proprio ha costruito, la chiama Alessandro Longo, una mappa delle sventure telefoniche. telefoniche, cioè ha messo in fila tutti i vari reclami che le compagnie ricevono, come appunto i casi di quel padre che ha scritto la lettera lamentando il comportamento poco corretto delle compagnie. Allora io adesso non vi faccio come dire la graduatoria, vi rimando all'Espresso, non voglio fare né pubblicità né negativa né positiva ad alcuno, vi dico però perché cosa reclamiamo, perché cosa ci capita di reclamare. Diciamo che tra le cose più che più ci urtano, che più portano alla segnalazione all'autorità garante, ci sono l'attivazione e disattivazione di servizi di comunicazione non richiesti, esattamente il caso che sollevava il genitore. Poi c'è il mancato passaggio ad altro operatore, che è un'altra delle voci per cui più ci sono reclami. Non è così invece quasi assente, diciamo, il caso di reclami per mancato rispetto delle direttive in materia di qualità, di carte, dei servizi, delle comunicazioni. Non sono infrequenti reclami per la sospensione di servizi e di linee, sospensioni che avvengono in difformità dalle disposizioni vigenti. Tutto questo sull'Espresso di questa settimana. Con questa ultima segnalazione si conclude la puntata di sabato di Magazine 24. Come sapete, Magazine 24 torna domani con una nuova puntata, sempre alla stessa ora. Intanto per oggi salutiamo Roberto Scaltritti, che questa mattina mi ha assistito in regia. Grazie come sempre ad Anita Panizza, che mi ha aiutato a preparare questo programma. Se volete scriverci, abbiamo anche una casella mail: magazine24@radio24.it. Buona giornata a tutti.